sonno che mi prende, scivola via la rata. Cosa succederà se mi sento un vuoto per un desiderio che e non si avvererà. Non voglio più pazzia, un'altra falsa ideologia, una fotografia di lei colpirla lì. Mi puoi raccontare ciò che vuoi, ma non ti merita lui. Lui non ti merita solo, non ti regalerà una canzone per Natale e una conchiglia da mare. Non ti farà mai giocare con le bambole che hai. Non ti sopporterà se quando piangi fai le lenzuola, ma ti ricorderai di me. Ed i gradini dell'altare pesano più di me, del mio magone scuro, del giorno mio più duro, ma una volta salita non ti girare mai. Cos'è che ho sbagliato? Dov'è che ho toppato? Se un giorno sei un re e il giorno dopo un bide, ma tu vai pure avanti, non ti girare mai. Lui non ti merita solo, non ti regalerà una canzone per Natale e una conchiglia da mare. Non ti farà mai giocare con le bambole che hai. Non ti sopporterà se quando piangi ad ultima parte di Rock Legends. Stiamo sempre ascoltando i brani del disco Sogni e Spari di Radio Station. Come si chiamava questa canzone? Non ti girare mai. Dopo l'uscita del disco, quali obiettivi attendono i Radio Station? Prima di tutto riuscire a far ascoltare la nostra musica più gente possibile, ovviamente tante serate, cerchiamo di far serate, di far ascoltare la musica, di farci conoscere il più possibile, insomma, come sempre, no? Sì, concerti per i locali, adesso vediamo, insomma. E allora, la prossima song? La prossima canzone è Camera d'Hotel. Capirlo, se non può venire lì, aspetta sempre il momento più opportuno per cercare assieme un'emozione nuova. Immagini che lei fantastica nella sua mente e questo essere speciale. Gira il motorino e pensa che l'amore sia eterno, eterno un fiore che non può più camminare. Se tu non credi niente, non riscaldi questa pianta assieme a me. Di giorno, di notte o in una camera d'hotel. E Cinzia lo sa che lui tornerà e sarà bello come un giorno d'inverno con un po' di sole. Si sa tante parole e lui arriverà e la capirà. La porterà al mare e la farà giocare. Di giorno, di notte o in una camera d'hotel. Ci si ascolta qua cortesa i filosofi di turno, Platone, Socrate, Aristotele e Mario Mona. Ma non vi trova una ragione a queste sue reazioni un po' pazze, bizzarre, ma senza dubbio uniche. E Giuseppe lo sa che lui tornerà e sarà bello come un giorno d'inverno con un po' di sole. Se sta tante parole e lui arriverà e la capirà. La porterà al mare e la farà giocare. Di giorno, di notte o in una camera d'hotel. Spera che lui stia già partendo e che pensi solo a lei. E Cinzia lo sa che lui tornerà e sarà bello come un giorno d'inverno con un po' di sole. Se sta tante parole e lui arriverà e la capirà. La porterà al mare e la farà giocare. Di giorno, di notte o in una camera d'hotel. Di giorno, di notte o in una camera d'hotel. Di giorno, di notte o in una camera, o in una camera, o in una camera d'hotel. E siamo in chiusura, a voi ricordo i contatti per richiedere le vostre rock legends preferite o per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo anche il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS, su Rock Legends. Un grazie ai Radio Station per la partecipazione, un augurio come sempre di pronto ritorno per il futuro. A voi la parola per i contatti web ed email per info sul CD ed un calendario di live di prossima programmazione. Sì, allora c'è il nostro sito web myspace.com/iradiostationmusic, l'ho detto proprio come si pronuncia. Poi contatti Facebook, cercate Luca Tacconi, Riccardo Giusti, siamo noi. Dopo da lì c'è anche la fanpage di Radio Station. Dopo da lì faccio i rincari Radio Station, che poi vi daremo notizie sulle date, sul CD anche per la vendita, per un'eventuale vendita, insomma. E colgo l'occasione per salutare tutti, per ringraziare prima di tutto Jean-Luc e Radio RCS per la possibilità. E poi colgo anche l'occasione per salutare tutti i nostri amici che ci hanno sempre seguito e che ci seguiranno. E insomma, o no Riccardo? E sì. Magari nuovi fan. E magari anche nuovi fan, ovviamente. Esatto. Vediamo. Grazie a tutti, insomma. Ciao, grazie. Brano di chiusura di questa puntata. Brano lento, soft, le cose non cambiano mai. Jean-Luc e Radio Station vi salutano, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao, ciao! Ciao. cose non cambiano mai, le cose si bruciano poi, rimane un'essenza di noi, un fuoco lento. Le cose non cambiano mai, mi giro e tu non ci sei, senz'altro è un segno che poi mi durerà dentro. Le cose non cambiano mai, mi giro e tu non ci sei, mi sembrerà strano che noi ci siamo persi in un barato di cartone, che noi curammo bene, lo sai, se tu ci guardi di più potrai giocarci. Kevin.